Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das Schwer zu machen ist. Radio Onda Rossa 87900 della modulazione di frequenza, telefono 06 491 7 50. Sono queste le note di Hans Eisler, Lode al comunismo, sulla poesia famosissima di Bertolt Brecht, interpretata in questo caso da Carmen Mai Antoni, che aprono le trasmissioni qua di Allegro con Fuoco sulle frequenze degli 87.9 di Radio Onda Rossa per Roma e per Lazio e sul web attraverso il sito ondarossa.info. Dunque iniziamo oggi la nostra trasmissione quando sono le 20.07, una trasmissione un po' speciale rispetto alle trasmissioni che di solito si susseguono su queste frequenze in questo orario, in questa giornata. E infatti abbiamo qua come ospite in studio un compositore, uno studioso che tra poco introdurremo, ma prima ascoltiamo un pezzo musicale e andando avanti sempre qua dalle frequenze di Onda Rossa e il telefono 06 491 7 50. Radio Onda Rossa 87-900 della modulazione di frequenza, e queste le note del famoso brano Il Pueblo Unido, Yamasera Vencido, interpretato qua da Frederick Rieschi, un compositore e pianista che ha voluto fare questo pezzo, e delle sue variazioni sono praticamente in tutto 9 variazioni su questo tema, il tema del brano che abbiamo citato all'inizio, interpretato qua dal pianoforte di Kai Schumacher, un brano che abbiamo utilizzato non solo per dedicarlo a tutti coloro e tutti coloro che sono all'ascolto, tutti i compagni e le compagne, per salutare anche coloro che sono all'ascolto e si trovano in condizioni di detenzione, tutti i compagni, le compagne del proletariato imprigionato, ma anche per salutare il gruppo d'ascolto che sappiamo che ci segue da oltreoceano in America Latina, e in particolar modo in Perù, che ascoltiamo, che appunto salutiamo con molto affetto. E dunque, dicevamo, dopo Alfred Rieschi, mentre facciamo un breve stacco, abbiamo pensato di mettere uno stacco così che non appare solo la mia voce a commentare i brani, ma ci sia qualcosa sotto. Dunque, prima di introdurre il nostro ospite, ci andiamo ad ascoltare un pezzo che ci viene dalla penna di Gheorghi Ligeti, e è un pezzo sempre per sempre le tastiere, diciamo, e guidano il tema di questa serata. E il suo inizio, infatti, abbiamo avuto Rieschi con questo pezzo per pianoforte, abbiamo questo sottofondo fatto di Johann Sebastian Bach, e ci andiamo ad ascoltare adesso di Gheorghi Ligeti una traccia, un continuum, un brano che ci viene offerto per clavicembalo solo. Dunque è la traccia numero 18 e la portiamo alla vostra attenzione sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87-900. Radion Rosso 87-900 della modulazione di frequenza era questo Continuum di Gheorghi Ligeti. E adesso presentiamo il nostro ospite, che è appunto Simone Santi Gubbini, un compositore, uno studioso, e andiamo a presentare il suo brano che presentiamo questa sera, che è Ausgesung per pianoforte, e l'esecutore appunto è lui stesso, Simone Santi Gubbini. E sentiamo cosa ci vuole dire rispetto anche a questo ultimo brano che abbiamo ascoltato di Ligeti. Buonasera, sarò molto breve. Partendo da Ligeti possiamo dire che intanto Continuum per clavicembalo, come avete potuto ascoltare, è un brano scritto da Ligeti nel 1968 ed appartiene ad un periodo ben specifico, forse anche il periodo più famoso di Ligeti, perché penso che moltissimi abbiano avuto la fortuna di vedere 2001 Odissea nello spazio, e quindi in 2001 Odissea nello spazio, come saprete, ci sono diversi brani che il regista Kubrick prese per lo straordinario film, appunto, che è 2001. Ed è un periodo di Ligeti molto importante. È stato nominato cosiddetto periodo di fasce sonore, perché, come avete potuto ascoltare, il brano in questione, senza entrare nello specifico, quindi in tecnicismi noiosissimi, possiamo dire brevemente che è il risultato di una ripetizione continua di brevi intervalli in trillo e tremolo a velocità elevatissime, come avete potuto sentire. E questo crea una forma di staticità che era molto cara a Ligeti, perché compositori fiamminghi del 1400-1500 tenevano di gran conto il fatto di creare una musica statica dai minimi movimenti, e questo in qualche modo Ligeti l'ha pienamente riattualizzato facendolo proprio, e quindi creando questa nuova staticità da un estremo movimento. Quindi dall'estremo movimento noi abbiamo una staticità. È come se fosse un uragano, se volete, in qualche modo. E questo chiaramente ha provocato diversi brani, ha fatto sì che Ligeti scrivesse per orchestra o per ensemble dei lavori che si basavano proprio su questo meccanismo, ovvero sul fatto di un'estrema economia intervallare, su un estremo movimento che creava una nuova forma di staticità, che è molto legata alla tradizione, appunto, come dicevamo, perché viene addirittura dal 1500. Dunque, Ausgesung, un brano da te composto nel 2012, vedo, per pianoforte. Vogliamo introdurlo o ce lo ascoltiamo prima? Che dici? Io preferisco ascoltarlo e poi semmai parlarne dopo. Credo che sia una buona cosa, non credo che la musica abbia bisogno di essere spiegata. Certo, infatti, ecco, questa è una frase molto importante, anche perché questa trasmissione Allegro con Fuoco, una trasmissione che vuole portare alle orecchie di tutti voi e tutte voi la musica classica, però appunto non ci perdiamo troppo nelle spiegazioni, perché appunto, come diceva appunto il nostro caro Simone, la musica bisogna ascoltarla, e quello che faremo quindi con questo suo brano e Ausgesung, che portiamo alla vostra attenzione, e dopodiché diremo di cosa si tratta. Thank you. Thank you. Radio Onda Rossa 87-900 e si utilizziamo sempre una pausa fino all'ultima vibrazione del pianoforte. Di questo pianoforte percosso in questa maniera da Simone Santicubini, che è appunto l'esecutore e l'interprete di questo brano, appunto, che insomma è un brano di una certa complessità e non sempre ci capita di poter avere l'occasione e la gioia appunto di sentire un brano del genere e sentirlo commentato direttamente dal suo esecutore e scrittore in questo caso. Quindi diamo la parola a Simone, prego. Spesso il pianoforte è stato guardato come sorgente sonora. Ora dobbiamo dire che qualsiasi strumento è allo stesso tempo sorgente sonora e risuonatore, ovvero che possiede una cassa di risonanza dove si attua una vibrazione che poi produce suono. Ebbene, dico questo perché ho guardato a lungo al pianoforte, ed il pianoforte è uno degli strumenti più storicizzati che abbiamo, insieme agli archi, all'organo, e quindi è sempre molto problematico poter scrivere per pianoforte oggi, tenendo conto di una grandissima tradizione, se pensiamo alle sonate di Beethoven, di Schubert, di Schumann, Chopin, eccetera. Quindi il pianoforte, ripeto, è stato visto per molti secoli esattamente come sorgente sonora e non come risuonatore. In questo caso io ho cercato di utilizzare proprio la cassa di risonanza del pianoforte, le possibilità che questa può darci. Il lavoro in questione è tutto sulla tastiera, non ci sono parti, come avete sentito, sulle corde. Esperienza importante che si è fatta nel Novecento, nella seconda metà del Novecento soprattutto. Ma sfruttando pienamente la risonanza dei tasti. In questo caso diciamo che per esempio si affonda un tasto o più tasti che producono suono, ovviamente, poi vengono subito rilasciati. Ecco, il fatto di rilasciare gradualmente i tasti produce una melodia. Un altro espediente che è presente in questo brano, che direi che buffo per me, è il fatto di aver pensato di realizzare un cluster ad 88 tasti. Che cos'è un cluster? Un cluster è un grappolo di suoni, quindi possiamo dire, tra virgolette, che è un accordo, perché chiaramente vive una simultaneità di suoni, ma è un accordo che può avere 12 suoni o 24, eccetera. Quindi molti suoni insieme, contemporaneamente. L'idea era proprio quella di realizzare un accordo, un cluster che occupasse l'intera tessitura, l'intera estensione del pianoforte. Ed allora ho pensato di, insieme a un straordinario, carissimo falegname, di realizzare delle aste che il pianista prende fra le mani e preme contro l'intera tastiera, quindi delle aste che fanno risuonare contemporaneamente tutti gli 88 tasti del pianoforte, neri e bianchi. È il pezzo dove sentiamo quel grosso rimbombo che sembrava provocato da un nastro magnetico, da un qualcosa di estraneo allo strumento. Sì, esattamente, a partire dal minuto 603 in questo caso, in questa esecuzione. E quindi, però, ne esistono anche di misure diverse, perché intendendo anche in questo modo lo strumento pianoforte sempre come risuonatore, io ne ho realizzate diverse, in questo caso sono 5 che vengono utilizzate in questo brano, che hanno diverse lunghezze e fanno risuonare certe ottave e altre no. Quindi si differenziano creando un vero linguaggio che in realtà non c'è, non viene provocato, ma viene fatto risuonare. E questo è un espediente che continua il lavoro del, come dicevo, del rilascio del tasto. Quindi c'è un'assenza che a suo modo è estremamente presente quanto il fatto proprio di suonare lo strumento. Comunque, certo, abbiamo apprezzato questo tua, questa tua scrittura, questa tua opera, che sicuramente, certo, è accompagnata da molte altre composizioni che però per diversi problemi, non ultimo il fatto, insomma, di rientrare nel nostro canonico orario, e non è potuto portare qui alla nostra attenzione, ma come spesso facciamo con, come spesso faccio con gli ospiti che abbiamo appunto la fortuna di portare qui in studio, e facciamo scegliere a loro alcuni brani e li facciamo anche presentare, se possiamo in questo senso sfruttare la tua presenza. Dunque, quindi abbiamo scelto da attaccare al tuo Ausgissung un brano di Ligeti, di Gheorghi Ligeti, che traiamo da un concerto per pianoforte e orchestra, e ci ascoltiamo l'ultima traccia, che è un presto luminoso, fluido, costante, sempre molto ritmico. Pianoforte solista, in questo caso di Pierre Laurent Aimard, e la direzione di Pierre Boulez, e con l'ensemble Intercontemporain, quindi insomma abbiamo detto un po' tutto quanto. Dunque, quindi, dici perché questo brano e tutto quello che ne deriva. Ma per due ragioni. Il fatto di averlo accostato al brano è anche una ragione personale. Io devo molto a Ligeti, come devo molto ad altri compositori del Novecento e non solo. Il secondo aspetto è quello, diciamo, che come io cerco di lavorare su dei materiali naturali, ovvero con le risonanze che esistono in natura, Ligeti in questo caso si ispira, soprattutto con quest'ultimo tempo, alla geometria dei frattali. Geometria dei frattali che è stata dimostrata da Mandelbrot, scienziato matematico, che è la geometria della natura. Esiste la geometria euclidea, ne esistono altre ovviamente, e esiste la geometria frattalica, che si è potuta dimostrare attraverso il computer. Quindi era stata teorizzata alla fine dell'Ottocento, ma solamente con l'avvento del computer l'abbiamo potuta dimostrare, perché avevamo bisogno di, appunto, una dimostrazione che fosse geometrica, quindi visiva, e solamente con calcoli estremamente complessi, quali può mettere in atto un computer, si è potuto finalmente stabilire la realtà di quest'altra geometria. Tanto che possiamo dire che questa geometria è l'unica geometria in grado di poter misurare, ad esempio, quanto è lunga una costa di uno Stato. Tutto questo perché? Che c'entra con Ligeti? C'entra perché, come sentirete in quest'ultimo tempo, in questo magnifico concerto di Ligeti scritto negli anni Ottanta, con pianoforte solista appunto, si ispira alle forme di un frattale, se volete anche elementare, perché ne esistono diverse. Frattale è una figura geometrica che si ripete all'infinito su scale diverse, e Ligeti cerca di portare questa visione geometrica spaziale in quest'ultimo tempo. Quindi voi sentirete un vortice, un presto che si approssima sempre a dei culmini, a delle climax vere e proprie, molto intense, che ha una regolarità che spesso ad un primo ascolto non viene percepita e risulta caotica. Ma io mi domando, anche una costa di uno Stato può risultare apparentemente caotica, ma se la guardiamo al dettaglio questa non lo è. E questo è quello che accade in Ligeti. Dunque non ci resta che ascoltarcelo e vedere di far appunto combaciare le parole del nostro ospite Simone Santigubini con l'ascolto che ne trarremo. Thank you. Radio Nero 87900 della modulazione di frequenza, telefono 0649750. Era questo l'ascolto di Gheorghi Ligeti, di questo estratto dal suo concerto per pianoforte e orchestra, nell'interpretazione del pianoforte di Pierre Laurent Aimard e dell'Ensemble Intercontemporain diretta da Pierre Boulez. Dunque, ci stiamo ascoltando questa sera dei brani molto complessi, non immediata comprensione, ma in cui bisogna un po' starci dentro con l'orecchio. E domandiamo oggi al nostro ospite, a Simone Santicubini, e appunto un musicista, un compositore contemporaneo, perché oggi la musica contemporanea, che cosa quella è la ricchezza che può dare in questo momento? Beh, come ebbe a dire una volta Pollini, chiedo scusa, pianista famosissimo, Maurizio Pollini, io risponderei esattamente come lui, o meglio usando le sue parole, perché la musica che possiamo definire in mille maniere diverse, ma una musica che produce qualità, come ebbe a dire Pollini, perché questa musica? Perché la musica fa bene, perché la qualità fa bene. E quindi io credo che ogni epoca abbia avuto bisogno di qualità, soprattutto epoche simili a queste di decadenza o di transizione. E qui possiamo aprire un discorso estremamente vasto, anche se saremo davvero brevi in ogni caso, sempre per i tempi ovviamente. Se noi pensiamo a un periodo che molti conosciamo, che è il periodo cosiddetto barocco, ebbene, nel periodo barocco moltissimi musicisti parlavano lo stesso linguaggio, la stessa lingua. Questo accomunava tutti i compositori e musicisti di allora. Stiamo parlando del 1700 circa, fine 1600, 1700. Quindi Bach, Telemann, Scarlatti, Handel, eccetera. Compositori famosissimi, amati ancora moltissimo, soprattutto in questo paese. Questo per dire cosa? Quanti compositori del cosiddetto periodo barocco noi ricordiamo oggi? La risposta è 10, 12. È assolutamente certo che ve ne fossero centinaia e centinaia, se non migliaia. Questo per dire che di musica cattiva e di musica buona ne è sempre esistita. Soltanto che oggi si pensa erroneamente che ne esista di più. Forse è anche possibile che ne esista di più. Ma non è questo il punto. Il punto è che, per ragioni direi pedagogiche o culturali, che sono strettamente legate a questo paese, ovvero l'Italia, portano a non conoscere, o meglio a non voler conoscere, a rifiutare una forma di espressione di estrema importanza, perché la musica lo è sempre stato e credo fermamente che sempre lo sarà. Quindi portando l'opinione di molti a non conoscere. Ma questo è un fatto molto italiano, perché se rivolgiamo delle domande oppure cerchiamo di parlare di musica cosiddetta contemporanea, dico cosiddetta perché si ha sempre la smania di nominare per poter riconoscere le cose, e quindi qualcosa che non si conosce spaventa. Categorizzare in qualche modo, mettere un'etichetta. Beh sì, questo è chiaramente è una logica di mercato, e quindi il mercato, bene o male che si voglia, abbraccia qualsiasi forma di arte oggi, anzi positivamente o negativamente permette a questa di esistere o di non esistere, quindi diremo che ci sono delle forze maggiori che nulla c'entrano con l'onestà di colui che lavora moltissimo giornalmente, cercando di esprimere se stesso o meglio, o allo stesso tempo cercando di produrre della qualità. Quindi si crede sempre erroneamente che questa musica sia complessa, sia complicata, peggio ancora, che è per gli addetti ai lavori, che non si può comprendere. C'è quella brutta definizione che paragona la musica classica alla musica colta, ma colta per chi? Colta perché? Ma io questo non lo so, però posso riportare un breve aneddoto che ho avuto la fortuna di leggere grazie ad uno scrittore qualche anno fa. Uno scrittore in questione si chiama Piero Violante, che ha fatto un libro stupendo, diciamo, a livello informativo, sul fatto che l'Austria ha avuto un trentennio socialdemocratico prima dell'avvento del nazismo, come sappiamo purtroppo, e questo governo ha affidato al popolo prime esecuzioni, oppure ha avuto come pubblico proletari, lavoratori, gente che fino a quel momento non poteva accedere alla grande musica di tradizione austro-tedesca, cosa che poi non era neanche negli intenti della socialdemocrazia austriaca, nel senso, perché dava spazio anche a compositori italiani, polacchi, russi, eccetera. Si eseguiva il nuovo, e questo nuovo è testimoniato con degli scritti, stiamo parlando di storia, con articoli, testi, eccetera, archivi, eccetera, che si dice invece che le grandi masse di allora, che erano povere di musica come lo possono essere oggi, apprezzavano enormemente quella musica, perché erano scevri da qualsiasi preconcetto. Non conoscevano la tradizione colta, come dicevi tu, e non conoscevano la novità. Come dicono gli altri, io preferisco non rientrare in questa... Hai ragione, ti chiedo scusa. Invece, ecco, scusate, volevo dire, chi è che snobbava queste nuove musiche? La borghesia, quella che oggi, come allora, pretende di capire o di non capire o di affibbiare delle etichette di qualità o di non qualità. Quindi le cose non è che siano poi cambiate molto. Quindi, scusate, si può pensare a sempre il solito discorso culturale, pedagogico, eccetera. Io credo che la musica dovrebbe essere forse insegnata, come lo si fa in altri stati, quanto la storia, la matematica, la geografia, eccetera. Quindi la possibilità che ognuno possa accedere a queste possibilità, a queste realtà, che quindi possa essere messo in grado di capire una musica. Intendiamoci, una musica veramente non la si può mai intendere, se vogliamo, o a meno che non si dedichi una vita ad una partitura. Ricordo una volta uno dei miei maestri, Valentino Di Bella, mi disse un bel giorno: ho finalmente capito la patetica di Beethoven. E me lo disse con le lacrime agli occhi. Era un uomo di 72 anni. Per tutta la vita cercava di capire. Ecco. Quindi non è che... O meglio, si pensa che Mozart o Schumann, quindi, o i romantici ancora di più, come Mendelssohn, o Chopin, eccetera, siano di facile comprensione, o perlomeno ci si illude che si capiscono queste musiche, e in realtà non si capiscono, non è vero, cioè danno all'individuo esclusivamente, ora chiaramente stiamo parlando di grandissimi compositori, questo è scontato, però danno al ricevente, ovvero al pubblico, una delle emozioni, o perlomeno il pubblico vuole vivere una delle emozioni più elementari che l'uomo può vivere. Cioè quello di essere abbacinato da una leggerezza, da una luminosità, da un'allegrezza, o il contrario, da un'oscurità, da una melanconia, eccetera. Quindi qui torniamo sul vecchio discorso del maggiore e minore, chiaramente, che suscita immediatamente, ha una forza tale, il modo maggiore, il modo minore, che provoca inequivocabilmente da subito queste sensazioni. Ora, mi sembra un po' limitato che l'arte possa provocare solamente tristezza o allegrezza. Mi sembra assai limitato. Io penso, per esempio, penso all'arte quando vedo una mostra, a parte che io dopo 2 ore di una mostra esco esausto. Come posso uscire ugualmente esausto da un concerto? Perché tale è la ricchezza che un artista di grande qualità può produrre, quindi un musicista lo stesso, uno scultore lo stesso, un architetto lo stesso. Se pensiamo all'architettura statunitense che ha vissuto periodi come gli anni Ottanta in cui si ritornavano a fare le colonne, eccetera, eccetera, mi ricordo un fatto molto divertente, Frengheri, architetto, ebbe a dire, ok, negli anni Ottanta tutti facevano le colonne, erano tutti tornati ai greci e ai latini. Allora io ho pensato, perché non tornare indietro quando gli uomini erano ancora dei pesci, per esempio, e ha cominciato a disegnare pesci e ha fatto una scultura immensa, che è di fatto un pesce stilizzato. Questo è molto divertente. Perché? Ma perché dobbiamo riprodurre? Allora, questo perché, che cosa stiamo dicendo? Perché dobbiamo continuare a scrivere nel modo maggiore e minore e suscitare queste emozioni? La musica può produrre moltissime emozioni e produce ancora anche quelle che sono la base, ovviamente. Però è in evoluzione, la nostra musica è perennemente in evoluzione. Ora, si pensa anche che questa musica non possa più produrre chissà quali novità. Io sinceramente penso il contrario, perché ne abbiamo talmente tante, sono talmente tante le possibilità che abbiamo ancora dinanzi, che proprio perché così massive, accorpate fra loro, non riusciamo ancora a vederle e facciamo una grandissima fatica nel trovare quell'innovazione nuova, ma un'innovazione che non perde mai di vista l'orecchio, un orecchio che è, come diceva Stravinsky, il primo giudice di una musica. E questa è la cosa più importante. Quindi una forte espressione. Io credo che la musica oggi abbia bisogno di una grande espressività, di una grande forza, che debba anche scioccare, proprio per evitare il vecchio fatto novecentista che tutti devono, come dicevo prima, nominare per poter riconoscere, quindi etichettare. Quindi nel momento in cui ci si trova spaesati, sensazione meravigliosa, trovo onestamente, allora non si capisce, allora la si giudica negativamente e la si mette da parte, la si accantona e tutti la dimenticano. Parole chiave ho utilizzato tipo matematica, tipo geometria, tipo musica che deve scioccare. E di chi parliamo allora, se non altri di Yannis Xenakis, che appunto di cui ci andremo ad ascoltare adesso un pezzo, una traccia che si chiama appunto Tracce, per l'esecuzione dell'Orchestra Filarmonica del Lussemburgo diretta da Arturo Tamaglio, e appunto da cui trarremo questo, lo shock che appunto di cui parlavamo, e poi vedremo anche la relazione che c'è tra questi due ultimi che abbiamo ascoltato, tra appunto Ligeti e Xenakis. Dunque a voi, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa, Tracce di Yannis Xenakis. La Giunta Rossa, Yannick Xenakis, che tra l'altro diceva perché 12 suoni, in riferimento alla musica dodecafonica, ma perché non 100, 1000, 10.000. Dunque, Yannick Xenakis in relazione a Ligeti, sentiamo l'interpretazione appunto che ne dà Simone Santicubini. Possiamo dire subito che l'uso di Ligeti, diciamo, come diciamo prima, della geometria frattalica, è un uso che potremmo definire poetico o come fonte di intuizione. Ligeti era sempre molto affascinato dalle scienze naturali, come sappiamo aveva fatto moltissime letture al riguardo. Nel caso di Xenakis invece parliamo di una persona che non solo era compositore ma era anche ingegnere e architetto. Possiamo dire brevemente che ha lavorato a studio dal grandissimo Le Corbusier e che quindi prima di decidersi a diventare compositore, rispetto alla norma, diciamo, che come si sa spesso è quella di che lo si decide da bimbi, da bambini, Xenakis lo capisce intorno ai 20-22 anni circa. Quindi con un bagaglio tecnico così importante come aveva Xenakis, ha cercato di immetterlo nella musica, quindi creando delle regole che per la prima volta erano del tutto nuove, del tutto inaspettate, ovvero il fatto di trasferire il mondo della matematica, una branca della matematica, che è appunto il calcolo combinatorio, e il calcolo delle probabilità, la teoria dei giochi ed altri linguaggi matematici algebrici nel mondo della musica, appunto. E lo fa specificativamente, nel senso proprio utilizzando la forza del numero nella propria musica. E come diceva appunto Roberto poco fa, Xenakis era contro la musica seriale, quindi la rivoluzione di Vienna, Schoenberg, Berg, Webern, Krenek, eccetera, perché proprio attraverso l'uso del calcolo combinatorio immesso nella musica è riuscito a creare, non utilizzando solamente i 12 suoni della scala cromatica, perché la scala cromatica ha 12 suoni, ma 100, 1000 suoni, ovvero una vera e propria costellazione, uno spazio siderale immenso nel quale il compositore agiva, considerando anche una libertà di questo spazio, quindi una certa naturalezza di questo. E appunto proprio usando questi linguaggi, che sono i linguaggi che descrivono il mondo in cui viviamo. Quindi, come disse una volta Kundera, o meglio, come scrisse in un breve scritto riguardo a Xenakis, che aveva per titolo Profeta dell'insensibilità, lui diceva, sintetizzando, che provava un grande piacere nell'ascoltare la musica di Xenakis, a differenza di quello che si pensa. Solitamente si dice che si prova un grande piacere ascoltando Bach o Mozart o Chopin, eccetera. Perché diceva questo? Perché Xenakis ha scritto, veramente ha scritto, una musica estremamente naturale e quindi come tale dovrebbe essere a molti, a noi tutti, estremamente vicina. E niente, quindi chiudiamo il nostro spazio andandoci ad ascoltare invece quello che è un vero profeta, si parla di Arvo Pärt, e un brano, diciamo, di una sonorità un po' più pagata rispetto a quella di Xenakis appena ascoltata, e quindi niente, gli diamo subito spazio senza... È un brano questo che ci viene, dunque chiediamo un aiuto Simone Santicubini per dirci quali strumenti partecipano. Sì, questo è un brano scritto da Pert e ripreso e terminato nel 1980, in 76-80. In questo caso è una versione per un ensemble abbastanza particolare, perché è una versione per flauti, percussioni, glasses, cioè dei bicchieri, perché possono essere registrati Bottiglie anche, vedo. anche bottiglie, esatto, come vediamo. E quindi è un brano estremamente particolare. Pert è famoso per essere un compositore che utilizza davvero, al contrario appunto di quello che abbiamo ascoltato in Xenakis, gli elementi minimi della musica. E questo lo fa utilizzando la base della musica, la forma più elementare, che è la triade. Ma in realtà, se noi pensiamo che la musica di Xenakis possa essere complessa, erriamo. Se pensiamo che la musica di Pert possa essere semplice, erriamo nuovamente. Perché ci sono due complessità risolte. Una semplicità non può esistere senza passare attraverso la complessità. Quindi è molto interessante adesso andare ad ascoltare, dopo Tracce di Xenakis, un lavoro come Pari Intervallo di Arvo Pärt, che quindi in questo modo presentiamo due estreme complessità risolte nel modo più opposto concepibile. E sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa, I87.9 nella modulazione di frequenza per Roma e per Lazio, ondarossa.info sul web.